Buongiorno amici della teoria del non senso, benvenuti a questa prima puntata dedicata al non senso. Vado subito a spiegarvi la teoria che ispira la mia vita e da cui nasce questo blog e, che spero raccoglierà col tempo, man mano che questa teoria venga compresa, tanti tanti fan. La verità delle cose si raggiunge solo buffoneggiando. È un cerchio che si chiude, un percorso ontologico, in cui il non senso prende corpo e poi diventa senso. E questa è la teoria che ispira la mia vita. Sì, fare i pagliacci per raggiungere davvero la verità delle cose. Come dire, dice ridendo, si dice la verità, ma si potrebbero fare poi tanti altri esempi. Oggi parliamo di notizie che a mio avviso potrebbero anche trovare uno spunto sul non senso e allo stesso tempo essere un esempio per dare conferma a questa teoria, perché spesso nella realtà ci sono delle cose che ci sembrano bizzarre, ci sembrano non abbiano senso, in realtà, ahimè, un senso, davvero finiscono per averlo. Ecco, per esempio, oggi parlando di tecnologie, ci sono delle notizie particolarmente curiose. Partirei subito da questa qui, dedicata allo studio dell'Eurostat, l'ufficio di statistiche dell'Unione Europea, che ha rilevato che in Italia c'è stato un sorpasso alquanto strambo, ovvero ci sono più cellulari che uomini. I cellulari sono 108. Ci sono 108,9 cellulari ogni 100 cittadini. Mi sembra questa una teoria abbastanza un dato abbastanza strano su cui ci si potrebbe davvero soffermare anche a lungo. Sempre rimanendo sul versante tecnologie e sul versante cellulari, c'è un'altra notizia particolarmente interessante, e cioè il fatto nel giorno in cui è stata pubblicata una ricerca che conferma quanto si diceva un po' da tempo, e cioè che i cellulari sono ri un rischio per gli aerei in volo perché emettono delle radiazioni che possono creare dei problemi ai dispositivi di volo degli aerei e quindi anche ovviamente minacciare, rendere problematica nella fase il volo. Proprio in questo giorno gli Stati Uniti sembrano stiano accelerando il processo di eliminazione del veto, per l'appunto legale, in base al quale è possibile, non è possibile, scusate, introdurre i cellulari accesi nei voli. Mi sembra quindi abbastanza particolare, bizzarra, quest'altra associazione di notizie. Vorrei chiudere con un'altra notizia, un'altra piccola chicca dedicata al binomio tecnologia e non senso di questa giornata, ovvero la Biblioteca Digitale Europea sta avanzando. Dice la Commissione Europea che nel 2010 ci saranno 6 milioni di libri digitalizzati. Questo significa che molte case editrici francesi, ma di tutta Europa, stanno collaborando con questo progetto, con questa valida iniziativa dell'Unione Europea. Tra queste case editrici ci sono alcune che hanno invece ostacolato il processo iniziato prima e parallelo alla digitalizzazione dell'Unione Europea, avanzato e portato avanti da Google, il motore di ricerca più diffuso della rete. Ecco, le stesse hanno quindi tentato di ostacolare da un lato un progetto e di avvantaggiarne un altro, un campanilismo a mio avviso che non ha tanto senso nell'epoca della globalizzazione, nell'epoca di internet, nell'epoca del web 2.0, dei social networking, dell'open source. Ecco, questo mi sembra un po' curioso e volevo segnalarvelo. E con questo anche chiudo questa prima puntata dedicata alla teoria del non senso, sulla quale per l'appunto troverete nuovi spunti sul blog all'indirizzo ilnonsenso.blogspot.com. Vi saluto e vi auguro che possiate anche visitare questo diario elettronico, commentare sia i podcast, questi file audio che quotidianamente pubblicherò, ma anche le tante notizie scritte che sono online. Un saluto a tutti da Vito Lops, all'appuntamento a domani.